felice tu lo sai, batti i piedi. Se sei felice tu lo sai e mostrarmelo vorrai. Se sei felice tu lo sai, batti i piedi. Batti piede, batti mano, batti piede, batti mano, batti mano, batti piede, mano, mano, piede, piede. Com'è che fa? Se sei felice tu lo sai, schiocca le dita. Se sei felice tu lo sai, schiocca le dita. Se sei felice tu lo sai e mostrarmelo vorrai. Se sei felice tu lo sai, schiocca le dita. Se sei felice tu lo sai, fai un fischio. Se sei felice tu lo sai, fai un fischio. Se sei felice tu lo sai e mostrarmelo vorrai. Se sei felice tu lo sai, fai un fischio. Schiocca dita, fai un fischio. Batti mano, batti piede, batti mano. Schiocca dita, fai un fischio, batti piede. Hai capito come funziona? Felice tu lo sai, muovi le mani. Se sei felice tu lo sai, muovi le mani. Se sei felice tu lo sai e mostrarmelo vorrai.